Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. E buongiorno a tutti per questa nostra giornata di giovedì 24 ottobre, 9 minuti spaccati, e noi andiamo subito, invertendo l'ordine degli addendi, sperando che il risultato non cambi, con il Pinzimonio. Buon ascolto. Buongiorno, siamo arrivati oggi alla 27ª puntata del Pinzimonio e concludiamo la settimana con le parole sancire, promulgare, addire, avallare e varare. Allora, cominciamo con sancire, che significa stabilire con autorità e in forma solenne, sancire un patto o un'intesa, o stabilire mediante una legge. La Costituzione italiana sancisce il diritto al lavoro di tutti i cittadini. Per estensione, sancire significa dare carattere stabile o confermare qualcosa. E simile a questo è promulgare, che significa pubblicare o rendere esecutiva una legge da parte del capo dello Stato, e per estensione anche altri atti, come promulgare un decreto o un editto. E in senso più generico, quindi, promulgare significa divulgare, rendere pubblicamente noto. Abbiamo poi addire, che letteralmente significa dedicare, assoggettare o consacrare. Nel riflessivo indica il dedicarsi o appunto il consacrarsi. A voi dunque del tutto io m'addico. E addire è un verbo distinto da addirsi, che abbiamo visto ieri, che significa invece essere adatto. Continuiamo con avallare, che nella sua prima accezione significa garantire con un avallo, come avallare una cambiale, e da qui in senso figurato significa confermare o rendere credibile, dare credito, come avallare una promessa di qualcun altro, o avallò le parole dell'amico con la sua autorità. E andiamo a concludere con varare, che deriva dal latino vara, che era una pertica di sostegno, un sostegno a forma di cavalletto. Varare significa eseguire l'operazione del varo di una nave, facendola scorrere sui vasi dello scalo dove è stata costruita quando la nave ultimata viene trasferita in mare. Da qui, appunto, in senso più generale significa spingere in acqua qualunque imbarcazione, e da qui viene il suo secondo significato, che in senso figurato significa portare a compimento, far stampare o pubblicare, far approvare, rendere operante qualcosa che ha richiesto assiduità di lavoro o un lungo impegno, come varare un'impresa o varare un libro, o la legge finalmente è stata varata. E in senso più scherzoso può anche essere riferito a una persona, che significa approvare, promuovere, come in un esame, in un concorso o in un'elezione. E questo era l'ultimo gambo di Pinzimonio. Io vi aspetto martedì prossimo, sempre alle 9:15. Buon proseguimento su Radio Zanardi. Ascolta il Pinzimonio su Radio Città Fogico oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinzimonio Radiofonico. La base di oggi è gentilmente offerta da Fulvio della Ragù Records, che si scrive con due O e che potete trovare su Facebook, Bandcamp e SoundCloud. Il Pinzimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Trecani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale. Grazie e buona giornata. Il Pinzimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno a tutti per questo giovedì 24 ottobre, c'è il silenzio di Salvini che si nasconde dietro i sondaggi per non parlare della Russia. Buongiorno a tutti per questo... Buongiorno ad ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati anche per oggi, giovedì 24 ottobre 2019, con il web notiziario di Radio Bullets, un podcast di notizie dal mondo, oggi dedicato alle notizie che arrivano dall'Africa e dall'Europa. Cominciamo dall'Africa perché oggi è il secondo e ultimo giorno per il vertice tra Russia e Africa, organizzato da Vladimir Putin a Sochi e copresieduto dalla presidente in carica dell'Unione Africana, l'egiziano Al-Sisi. Al vertice stanno partecipando numerosissimi leader africani. Ieri è stata la giornata degli accordi con l'Egitto, con la Russia che si impegna a costruire la centrale nucleare di El Daba e di una zona industriale russa, il cui accordo era già stato siglato lo scorso anno. Il presidente egiziano ha spiegato che lavorerà per rimuovere tutte le questioni ancora irrisolte. Mosca costruirà la sua zona industriale ad est di Port Said. A tutti i leader intervenuti, Putin ha ribadito che il volume degli scambi tra i paesi africani e la Russia è ancora troppo piccolo e che è suo desiderio e suo impegno aumentarlo. Sono oltre 20 paesi rappresentati, in genere al più alto livello, al vertice di Sochi. Assente il presidente del Camerun Paul Biya, rimasto a Yaoundé per ricevere il ministro francese Le Drian. Marocco, richiesta la pena di morte con esecuzione contro i tre uomini accusati di aver rapito e decapitato le due turiste scandinave nel dicembre del 2018, rivendicando poi l'azione a nome dello Stato Islamico. I tre erano stati condannati in prima istanza il 18 luglio scorso proprio alla pena capitale, che non si applica in Marocco dal 1993 in una moratoria di fatto. Ieri in appello il procuratore ha chiesto la pena di morte anche per un quarto uomo condannato in primo grado all'ergastolo. Sudafrica, si dimette Musi Mainame, presidente di Alleanza Democratica, accusando il partito di non essere fautore di un Sudafrica unito, ma al contrario di essere un partito divisivo. Maimane ha guidato il partito, il più grande dell'opposizione, per 4 anni ed è stato il primo non bianco a farlo. Prima di lui, all'inizio della settimana, aveva dato le dimissioni dal partito anche il sindaco di Johannesburg, denunciando questioni razziali. Nel partito ci sono state forti critiche alla presidenza di Maimane dopo l'ultima disfatta elettorale, sia per la sua posizione politica, ma anche per i dubbi di corruzione nell'acquisto della sua casa. L'Alleanza Democratica è stata fondata nel 2000 dalla riunione proprio di tre partiti che venivano fuori dalla minoranza bianca del paese. Etiopia, il Nobel della pace, non basta a fare di un premier il premier di tutti. Ieri centinaia di sostenitori di uno degli attivisti più popolari dell'Etiopia, Javar Mohamed, si sono radunati di fronte alla sua casa dopo che erano circolate le voci di un complotto volto a assassinarlo, complotto ordito, secondo i dimostranti, proprio dal primo ministro Abiy Ahmed. La BBC parla di 3 manifestanti uccisi. Le autorità dicono invece che non c'era nessun complotto di tal genere, ma solo l'alleggerimento delle misure di sicurezza e protezione di Javar Mohamed, dato il basso livello di minaccia nei suoi confronti. Tanzania, l'alta corte ha annullato ieri la legge che permetteva alle famiglie di far sposare le proprie figlie già all'età di 15 anni. Con questo giudizio la Corte Suprema ha confermato la decisione presa da un'altra corte del paese che aveva stabilito che il matrimonio di questo tipo è un attacco ai diritti delle donne e pertanto è incostituzionale. L'età minima del matrimonio sarà adesso di 18 anni, come già lo è per i ragazzi. Secondo l'UNICEF, il 31% delle ragazze in Tanzania vengono sposate prima dell'età di 18 anni e il 5% anche prima del loro 15° compleanno. Nonostante gli scandali legati alla famiglia del presidente del Congo, la First Lady Antoinette Sassou Nguesso è stata eletta ieri presidente dell'Organizzazione delle First Ladies Africane per lo Sviluppo, creata inizialmente nel 2002 allo scopo di sviluppare la prevenzione per le malattie legate all'HIV. Europa, Gran Bretagna, sono ancora in corso di identificazione corpi delle 39 vittime trovate ieri in un camion frigorifero nella contea di Essex. Le indagini finora condotte non hanno ancora portato con certezza a scoprire la dinamica dei fatti. Le autorità britanniche non hanno rivelato come e da chi sia stata fatta la telefonata che ha allertato le ambulanze e portato poi alla scoperta delle vittime. Il percorso del camion è ancora allo studio dopo una serie di informazioni errate, mentre non è chiaro se l'autista del mezzo abbia caricato il rimorchio in Gran Bretagna o in Belgio, da dove pare sia arrivato, o altrove. Le autorità bulgare si sono intanto premurate di informare che il mezzo è stato immatricolato il 19 giugno 2017 in Bulgaria, a Varna, ma che il giorno dopo ha lasciato il paese e non ha più circolato sulle strade bulgare. La società irlandese che ha registrato il camion in Bulgaria è titolare anche di altri 2 mezzi. Secondo Dimitar Dimitrov, direttore della Camera dei Trasportatori bulgara, non è insolito che società europee registrino i propri mezzi in Bulgaria approfittando di una fiscalità più favorevole. Il Belgio, intanto, paese per il quale sarebbe transitato il camion, ha informato di aver aperto un'inchiesta che si aggiunge così a quella britannica e a quella bulgara. Secondo il servizio immigrazione britannico, nel 2018 sono state fermate oltre 8.000 persone entrate nel paese nascoste in camion o in macchine. Di queste, più di 1.000 sono state arrestate all'arrivo nei porti e ieri la polizia britannica ha comunicato di aver trovato vive 9 persone all'interno di un camion nel Kent e di averle arrestate per ingresso illegale. Quello di ieri non è il primo caso di migranti trovati morti all'interno dei camion con cui tentavano di passare le frontiere. Il caso più noto è quello dei 71 migranti lasciati morti in un parcheggio di un'autostrada austriaca nel 2015, per il quale 3 persone sono state condannate all'ergastolo quest'anno. In Bulgaria 2 giorni di manifestazioni ieri e oggi contro la nomina a procuratore capo di Ivan Geshev, il contestato magistrato che nel luglio 2019 è stato nominato come unico candidato alla carica di procuratore generale. Ci sono state già all'epoca forti proteste di piazza per questa nomina, giudicata politica, e per il fatto che lui è accusato di violazione dei diritti umani, anche per frasi controverse, come dichiarare che per i criminali ci vorrebbe la pena di morte per fucilazione, che però non è prevista dal codice penale, ha detto. Oggi ci sarà l'audizione del magistrato, trasmessa in diretta TV, e il voto sulla sua nomina, che sembra quasi scontato. La Bulgaria, tra l'altro, va al voto proprio questa domenica. Oggi alle 11 il ministro dell'Interno illustrerà le misure di sicurezza prese per le elezioni, dopo aver comunicato che è probabile che ci siano disordini, e alle quali elezioni saranno presenti anche 2 missioni di osservatori internazionali, oltre a 7 team locali. Il secondo turno delle elezioni è previsto il 4 novembre. Spagna, giornata storica oggi per la rimozione dei resti del dittatore Francisco Franco, che saranno traslati in una tomba non monumentale ma pagata comunque dallo Stato. Alla cerimonia sono stati autorizzati a partecipare solo i parenti più stretti. Pochi giorni fa il governo aveva detto che avrebbe mantenuto il riserbo sulla data della esumazione. Franco era seppellito nel monumento nella Valle dei Caduti, lo stesso dove si trovano i resti delle sue vittime. Intanto in Spagna sul fronte politico non si chiude la questione catalana. Il premier Sanchez rifiuta di parlare con Quim Torra, presidente della Generalitat di Catalogna, giudicandolo un presidente a metà perché, secondo Sanchez, rappresenta solo la parte dei catalani che vogliono l'indipendenza e non quelli che la rigettano. L'ultimo punto di scontro in Catalogna è la richiesta di Torra di indagare sulla violenza della polizia nel corso delle manifestazioni, seguita alla sentenza di condanna dei leader indipendentisti e il suo rifiuto di schierarsi con l'accusa nei processi contro i manifestanti. Questo fine settimana intanto sono annunciate 2 manifestazioni, una quella di sabato lanciata da Tsunami Democratic, che si prevede sia molto partecipata, quella indetta dal Movimento contro l'autonomia, che vede la presenza del Partito Popolare e di Ciudadanos, ma alla quale hanno dato adesione e garantito partecipazione sia il Partito Socialista a livello nazionale sia il Partito Socialista catalano. Belgio sciopera oggi nel settore della sanità dopo la mancata firma dell'accordo concluso esattamente 2 anni fa, il 25 ottobre del 2017. Lo sciopero è stato deciso dai maggiori sindacati e interessa sia gli ospedali che il settore di cura privato, compreso quello a domicilio, e le case di riposo. Il sindacato prevede che saranno coinvolti la maggior parte degli ospedali. Non manifesteranno però davanti al Ministero della Sanità, spiegano, perché la responsabilità del mancato rispetto degli accordi deriva dai datori di lavoro. Intanto la più importante centrale sindacale belga chiede un aumento del salario minimo a livello nazionale e generale e boccia la proposta fatta ieri dal governo di un aumento solo dell'1,1%. In caso di mancata risposta, il sindacato annuncia azioni di disobbedienza civile. Il governo aveva presentato anche un'altra proposta più favorevole, che corrispondeva a un aumento di 58 euro lordi al mese, portando quindi il salario minimo a circa 1.700 euro lordi, ma era legata alla rinuncia di alcuni diritti, come il preavviso in caso di licenziamento, proposta quindi che è stata rigettata dal sindacato. Francia, Lione, un uomo è stato condannato a 10 anni di prigione e a 5 supplementari di sorveglianza per aver sfregiato con l'acido la sua ex compagna. La difesa dell'uomo aveva tentato di sostenere che la donna si fosse autosfregiata per punire l'uomo, ma la corte non ha ritenuto probabile questa versione. L'uomo era già stato condannato nel 2013 per violenze coniugali. La Francia ha iniziato quest'estate una serie di incontri istituzionali per arrivare a una normativa migliore per la prevenzione e la punizione delle violenze coniugali e delle violenze nei confronti delle donne. Il Parlamento europeo, con un'obiezione votata a larghissima maggioranza, chiede alla Commissione europea di rivedere la sua proposta di riforma della valutazione dei rischi legati ai pesticidi, tenendo conto delle più recenti scoperte scientifiche sull'impatto che il loro uso comporta per la vita delle api e degli insetti impollinatori. La riforma era stata adottata dal Comitato Tecnico quest'estate su proposta della Commissione, ma per il Parlamento è una sorta di presa in giro, una normativa a ribasso che contrasta gli impegni formali presi a difesa dell'ambiente. E questo è tutto per quello che riguarda il web notiziario di oggi. Vi saluto, vi do appuntamento a domani per il notiziario. Vi lascio con il resto delle rubriche di Radio Bullets per chi ci ascolta online, con il resto dei programmi di Radio Città Fujiko per chi ci ascolta da Bologna. Una buona giornata. Di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. E buongiorno a tutti per questa nostra giornata di giovedì 24 ottobre, sono esattamente 9.30 in questo momento, noi allora attacchiamo con la rassegna stampa che vede una cosa che uno può pensarla come vuole, di destra, di sinistra, di centro, ma è incontrovertibile. Conte si è presentato a spiegare sulla vicenda di Mosca, Salvini no. Questo direi che nessuno lo può negare. E allora già dalla dimensione anche di una correttezza istituzionale oppure di un benefreghismo della vecchia maniera. Copasir dice il Corriere della Sera, Conte attacca Salvini. Noi corretti lui spieghi i legami con Mosca. La replica è in difficoltà e mi accusa. Come sempre Salvini quando viene messo a delle domande risponde con dell'altro. Tu puoi domandare a Salvini, scusi se allora lui risponde sta piovendo. È un classico. Lettera di Gualtieri a Bruxelles, a manovra espansiva, arriva la carta bimbi per le famiglie. Il Corriere mette insieme la vicenda della commissione parlamentare sui servizi segreti e la vicenda della manovra. Marco Galluzzo e Fiorenza Sardanini, Conte per due al Coppa si richiarisce, si difende e attacca Salvini. Noi corretti, lui spieghi i legami con Mosca. La replica del leader leghista, lui è in difficoltà e mi accusa. Sul fronte economico, lettera di Gualtieri, Bruxelles, manovra espansiva. Questo un po' è il riassunto della giornata politica del Corriere della Sera. Poi Conte, dunque, seguito i nostri 007 strani, dice: se avessi parlato con i ministri avrei fatto una cosa fuori legge, ma il retroscena di Francesco Verderami, ma il premier non spiega perché non partecipò agli incontri con gli Stati Uniti d'America. Conte risponde sugli USA del Fatto Quotidiano, giornale chiaramente che guarda con simpatia Conte. Salvini taci censura sul caso Russia. Si sgonfia l'affare servizi segreti, la Lega vuole imbavagliare Report. Questa è una cosa curiosa, perché Report, che ha fatto un servizio sul punto su Salvini, su Savoini, la Russia, i finanziamenti diretti e indiretti alla Lega, presunti o non presunti, e ne pronuncio un altro per la prossima settimana, viene castigato dai leghisti nel CDA Rai perché avrebbe violato la par condicio, essendoci domenica le elezioni in Umbria. Naturalmente è una balla tremenda, perché se in Italia non si parla di politica quando c'è un'elezione in vista comunale, provinciale, regionale o nazionale o europea, non ci sarebbe più informazione. Forse questo non dispiacerebbe i leghisti. L'inchiesta di Report sulla Lega, Rai, dice il manifesto, la destra attacca, incidiamo, è un autogol. Un clamoroso autogol. Ora tutti correranno a riguardare la trasmissione su Rai Play e in rete. Prevede il deputato in Italia Viva Michele Anzaldi, membro della commissione vigilanza Rai. Anzaldi, ricordiamo, è uno dei bastonatori che Renzi mise a suo tempo in CDA Rai come garante del renzismo nel piccolo schermo catodico. E andiamo, vediamo allora il caso Savoini, così descritto dal Fatto Quotidiano. Salvini tace su Metropol e attacca Report in CDA. Insomma, è un classico del potere: quando qualcuno parla di te, tu non rispondi, ma chiedi l'affossamento di quel qualcuno. Quindi è esattamente un elemento, come dire, proprio non di liberalità per eccellenza, diciamo così, che era un giro di parole. Impeachment, tanto andiamo oltreoceano. Donald ora inguaiato per le pressioni su Kiev. Quid pro quo Taylor, inviato in USA in Ucraina, il presidente subordinò l'invio di aiuti militari l'inchiesta contro Biden. Quindi la conferma che ci fu una pressione importante ed è tutto extralegale di Trump su Kiev, affinché inguaiasse il suo competitor alle prossime elezioni. Caso 007, Conte svicola e va l'attacco di Salvini. Questo è il giornale che è un paradosso, perché farà anche svicolato Conte, ma meno si è presentato, quell'altro nemmeno si è presentato. Allora è anche la verità, siamo nel giornale del liquame del fondo a destra, quelle domande sugli 007 qui Conte non risponde. Grazie Alfredo, buongiorno a tutti e a tutti. Proseguiamo con l'esame delle prime pagine della stampa di oggi. Partiamo dal quotidiano Repubblica del direttore Carlo Verdelli, in pagina 2 l'articolo di Matteo Pucciarelli che ci parla del Russia Gate e dell'audizione ai giornalisti e del Copasir, dove Conte spiega che cosa è accaduto e la sua totale estraneità dei nostri servizi segreti, e nello stesso tempo attacca Salvini e chiede spiegazioni sul il suo intervento in Russia insieme a Savoini e all'Hotel Metropol. E mentre chiede queste cose, la replica di Salvini è: ma io mai stato in Russia, a Mosca e all'Hotel Metropol. E c'è anche questa strana polemica sulla Rai, e la destra va all'assalto di Report e invece c'è Salini che difende la libertà di informazione. E dal mio punto di vista c'è una discrepanza tra le commissioni e i ministri. Nel governo Conte 2 sono cambiati i ministri, ma le commissioni sono rimaste sulle stesse parti del primo governo, e quindi Forza Italia e Lega stanno attaccando a mani basse il governo. Sulla stampa, anche per la stampa, il giornale di Torino, questa notizia è in prima pagina, l'audizione al Copasir, c'è Conte che difende i servizi segreti, noi siamo completamente strani al Russia Gate, e poi attacca comunque Salvini. E ancora il leader della Lega punta sulla deposizione del capo dell'intelligence, ma in ogni caso ancora non si è presentato a parlare e a dare spiegazioni. E ancora su questi argomenti le pagine interne che poi esamineremo. Sì, altri giornali aprono con questo titolo, tipo il Messaggero di Roma, Russia Gate Conte accusa Salvini, o ancora abbiamo il Gazzettino, pagina nord-est italiano, Russia scintille Conte Salvini, mentre possiamo andare anche alla Gazzetta del Mezzogiorno, uguale più o meno il titolo, Conte botte bis a Salvini, mentre la notizia, giornale 5 Stelle, altra lezione a Salvini, Conte non scappa e risponde punto su punto al Copas. Quindi, caro Salvini, non stare sulla scranna, ma rispondere alle domande. Se te ne stai così muta su una sedia ed aspetti che parla tu Salvini. La Gens, un gruppo degli anni 60, dei gruppi beat, e la voce era quella in falsetto di Ivan Graziani, che poi fu conosciuto anche negli anni 70, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la manovra c'è in confronto con l'Europa, è il solito discorso, quanta flessibilità, cosa considerare flessibilità, come derubricare il patto di stabilità, eccetera, eccetera, eccetera. La giornata descritta dagli scenari economici da Antonio Signorini del giornale, questa, la manovra inciampa, lettera all'Unione Europea in ritardo, caccia alle coperture. Va da sé che se leggiamo un giornale centrodestra è tutto più difficile, se leggiamo un giornale centrosinistra tutto è più facile, comunque. Devo dire che la prima sicura, la seconda magari meno, perché il centro-sinistra ama beccarsi l'un con l'altro. In arrivo modifica plastic e sugar tax, tecnici al lavoro per fare tornare i conti. Gualtieri, evitati 6 miliardi di tagli alla spesa, ma le entrate aumentano di 15 miliardi. Questo è il resoconto che ci dà il giornale. Peraltro il giornale, siccome ha promesso agli italiani una marea un'altra volta dalle tasse in più che non ci sono, una manovra povera, c'ho pochi soldi se non per coprire, per risparmiarsi dall'aumento dell'IVA. Ma allora cosa si fa? Nicola Porro fa un libro, è un uomo della destra televisiva, le tasse invisibili ci sono ma non si vedono, questo è quanto. Altri temi: carta bimbi da 400 euro al mese, racconta il Corriere della Sera con Mario Sensini, e da settembre via il super ticket. Gualtieri a Bruxelles, coperture certe dalle microtasse entrate per 5 miliardi, quindi si parla di microtasse, non sulla plastica ma sul sugar, non sulle bibite ma su altre piccole vicende. L'affondo politico, oltre alle tasse preesistenti ovviamente, l'affondo politico, quando sono arrivato ho trovato, dice Gualtieri, ministro dell'economia, i cassetti, i frutti della demagogia, debiti e condoni. Devo dire che è vero che Salvini è uscito dal governo facendo harakiri, Però è anche vero che si è tolto l'imbarazzo di dover fare la manovra finanziaria e riparare le maronate dell'anno prima. E adesso può gridare dall'opposizione. Comunque, le pensioni. Mini rivalutazione per le pensioni tra i 1.500 e i 2.000 euro al mese. Queste sono le cose che naturalmente in questo bailame di voci e controvoci naturalmente vedremo quando verranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Prima non osiamo più di tanto sbilanciarci. Poi naturalmente nella manovra c'è anche tutta la questione dell'accordo politico, che prevedeva anche l'accordo sulle autonomie regionali e un accordo entro il 31 dicembre per i famosi contrappesi per i tagli parlamentari, che sarebbe mica non cosa da poco: riforma costituzionale, riforma elettorale, riforma delle circoscrizioni. Ancora nessuno ne parla e siamo già all'inizio di novembre, ma e vedremo se finirà come la legge sul fine vita. Nel frattempo i parlamentari non ci sono più, quindi si va a votare col 40% dei voti più il 70% dei parlamentari. Questo è esatto. Comunque Franco Farinelli invece parla dell'altro tema, l'autonomia regionale, e lo fa dal Manifesto in pagina 15, in quella spazio community dei ragionamenti a largo spettro. Le autonomie regionali mimano la forma prodotta dalla crisi. L'autonomia differenziata risponde in modo debole e difensivo ai processi indotti dalla rete nella globalizzazione dello spazio territorio, cioè in parole povere, fomentare le regioni ricche fa diminuire il reddito delle regioni povere. Con il Sud cavia da laboratorio, per l'appunto, racconta Franco Farinelli. Sì, sul tema della manovra il Sole 24 Ore, il quotidiano della Confindustria, apre con la notizia: via libera con 168 voti, decreto crisi al Senato, prima fiducia al Conte Bis. La sua prima fiducia, il governo Conte Bis ottiene 168 voti a favore e 110 contrari. È l'esito delle votazioni che si è svolta ieri in Senato sul maxi emendamento presentato dall'esecutivo al decreto sul lavoro e crisi delle imprese. E sempre in base al decreto delle imprese, il Carlino apre con una notizia drammatica: è incubo per l'Ilva di Taranto. Dopo il primo test del governo con 168 voti di sì alla fiducia, si apre un braccio di ferro su ArcelorMittal, la società indiana che ha preso la gestione dell'Ilva di Taranto. La sorte dell'Ilva è sempre più a rischio. Il via libera al decreto salva imprese grazie alla fiducia votata dai 168 senatori, senza più lo scudo legale e penale per i vertici. E non solo, il gruppo ArcelorMittal sta provocando un vero terremoto negli stabilimenti di Taranto e degli altri siti siderurgici del nord. I capi reparto e squadra dichiarano incerti sul da farsi e sullo svolgimento dei loro compiti, nel timore e nel terrore di poter essere inquisiti per una raffica di possibili reati. Entra intanto il fatturato continua a calare. E in tema di manovra prendiamo il quotidiano di Torino, La Stampa, e si parla di risposta all'Unione Europea, e all'ultimo minuto il governo cercherà di dare ancora altri dettagli a cura del ministro Gualtieri, il quale afferma che è il 2,2% il rapporto fra il deficit e il PIL che l'Italia propone all'esame di Bruxelles. L'ulteriore di richiesta in milioni di euro sono 30 per appunto. È confermato il bonus cultura ai 18enni, ma solo per una cifra molto più bassa. Mentre in tema di elezioni in Umbria ci sono comizi incrociati. Il leader della Lega che critica Luigi Di Maio e dice che gli fa pena, lui e Zingaretti sono come i puffi, il ministro Matteo è scampato dalle sue promesse. Il capo dei grillini invece dice: tutto il movimento sostiene la Raggi, e così facendo il sindaco di Roma, che chiarisce il capo politico dei grillini, Luigi Di Maio, annunciando una proposta di legge per conferire poteri speciali alla città, il suo intervento mette fine alla polemica esplosa ieri all'interno del Movimento 5 Stelle. A innescarla il ministro Spadafora, fedelissimo di Di Maio, che martedì ha definito un problema la capitale e l'amministrazione. Questo. E sull'Umbria naturalmente c'è l'attacco degli ultimi singoli candidati negli ultimi colpi di una campagna elettorale, comunque vedi vantaggio centrodestra nei sondaggi, e con la speranza di Salvini e Camerati di avere un risultato in Umbria potente per poi farlo rimbalzare anche per dire in Emilia Romagna, dove invece i sondaggi gli danno sfavorevoli, creare un'onda di consenso. E allora è importante dire non solo chi vince, ma con quali rapporti elettorali. Nel frattempo il Fatto Quotidiano con Giacomo Salvini, che non è parente di quell'altro, dice: la Tesei è poco trasparente, nascosa la nomina bancaria. La Tesei è la candidata del centrodestra. Verso le regionali, alle esposte la Nana contro la candidata di Salvini, era nel CDA della Popolare di Foligno, sul sito comunale non c'è scritto. Credo che la Lega abbia qualche altro scheletro nell'armadio più grosso di questo, tipo 47 milioni, 49 milioni da restituire in 87 anni. Comunque ex sindaca a Montefalco, mistero anche sulle consulenze, un buco di bilancio di oltre 2 milioni, questo è quanto. Ma se andiamo al giornale, andiamo anche ad Assisi, che è una roccaforte del centro-sinistra quanto sembrerebbe, ma se leggiamo le cronache di Andrea Cuomo, sembra il fil luce del Duce, Berlusconi conquista Assisi e spinge l'OPA di Renzi. Beh, lo conquisterà magari dopo le elezioni, prima non so cosa abbia conquistato. Infatti c'è una foto di Berlusconi sorridente da solo su un terrazzo, credo che posso farla anch'io. Il leader in campagna elettorale lancia il centrodestra, bene che Salvini e Meloni sono tornati verso di noi. Patetico Berlusconi che cerca di giganteggiare quando ormai è l'ospite malamente sopportato dagli altri due. Questo, e poi c'è invece Renzi che qui la dico, qui la nego, e torna con lo stai sereno Conte. Se c'è chi pensa al voto lo dica, io non voglio staccare la spina. Il leader di Italia Viva, altri verranno da noi, tanto per non per creare amicizia con i vicini, no? Il PD o è forte, resisterà o finirà come i socialisti francesi. E sulle regionali l'Umbria è solo una regione, o nel caso dell'Italia Viva lì non è neppure candidata, questo è. E quindi sembra che il centro-sinistra si dia già per persa l'Umbria dalle dichiarazioni, ma diciamo che non c'è un popolo senza un foglio di carta stampata, e il popolo della Leopolda se l'è dato. È tornato il riformista. Ecco un riformista, un foglio leopoldino firmato dalla Boschi, quindi le più belle firme, no? del panorama nazionale. Vediamo chi è, l'editore Romeo, quello di Consip, qui rimane il giro stretto di Renzi. I direttori Sansonetti e Bergamini, quindi il compagno Sansonetti si ritroverà col compagno Gennaro Migliore, entrambi renziani. La linea: bisogna abolire il carcere, questo è il lasciamo perdere queste buttate così anarchi d'un tempo. Ma veniamo invece a Di Maio, che tu citavi. Di Maio, portieri speciali a Roma, chiede appunto che Roma abbia una cassa speciale per far fronte alle sue problematiche. Da Franceschini arriva l'Alte, questo è la capitale secondo Alessandro Troccino del Corriere. Su Raggi lite tra 5 Stelle dopo le critiche di Spadafora. Zingaretti sindaco da cambiare, questo è quanto. Mentre per l'Umbria chiudo con la candidata del centro-sinistra, dopo 50 anni che è del centro-sinistra, dice quella della Tesei di centrodestra, mi aspetto un voto di testa, insomma, dipende che tipo di testa. Dipende che testa. 9:48 minuti primi, un'altra notizia che prende le prime pagine di tutti i quotidiani è il tema dell'ergastolo dei mafiosi e la controversa sentenza che è la Consulta, leggiamo dalla Stampa in prima pagina, dice sì ai permessi per i mafiosi ergastolani, boccia l'ergastolo duro per i boss mafiosi, è incostituzionale negare permessi a chi collabora. Nicola Morra, dimenticato il sangue versato da Borsellino, Falcone dalla Chiesa. Precisiamo che questo è solo un provvedimento che arriva dopo che la Corte Europea aveva emesso una grave sentenza su questo tipo di carcere per l'Italia. C'è un articolo di fondo che segue dalla prima pagina di Vladimiro Zagrebeschi che dice: ingiuste e fonte di disinformazione sono le prime reazioni allarmistiche, prevalentemente provenienti da pubblici ministeri, e sorprende la sfiducia che esse dimostrano nei confronti della magistratura di sorveglianza competente. Sfiducia oppure preoccupante divaricazione di cultura professionale, quando invece a difesa dell'unità della magistratura si usa richiamarsi alla cultura della giurisdizione comune a pubblici ministeri e giudici, e quindi giustizia e giustezza della Consulta che ha espresso questo giudizio. E ancora su questa stessa notizia c'è un'analisi di Luigi Manconi dalla prima pagina di Repubblica. E anche lui insiste su questa onda e dice: niente panico, ma teniamo i nervi saldi e tranquillizziamoci. Nessun boss della grande criminalità organizzata, nessun capo della mafia, della camorra, dell'andrangheta, della Sacra Corona Unita, nessun canuto terrorista sta per tornare in libertà. Dunque gli autori dei delitti più efferati non torneranno a scorazzare per le strade. E non è vero che sul piano simbolico e emotivo della memoria storica qualcuno ha riammazzato Falcone e Borsellino. Andiamo su questo argomento a prendere le pagine del Carlino, pagina 4, e si parla di ergastolo duro e permessi anche ai boss, e si fanno diversi nomi di personaggi, o all'ergastolo sul 41 bis o all'ergastolo sul ergastolo stativo, Raffaele Cutolo, il super camorrista, Leo Luca Bagarella, il cognato di Totorina, Nadia Desdemona Lioce, la leader delle nuove BR di Massimo D'Antona nel 99, Domenico Gallico, il boss di Gioia Tauro, che è stato condannato a 7 ergastoli per altrettanti omicidi e a 25 anni per un delitto commesso su un minorenne, e Giuseppe Graviano, che fece uccidere padre Puglisi. Sì, il giornale titola papale papale: vince la mafia, permessi premio ai boss. La consulta abolisce l'ergastolo stativo, assassini e terroristi non pentiti potranno uscire. Qui c'è il gioco, l'equivoco. Perché potranno uscire, sembra, a leggere il giornale, che possono a loro piacimento. In realtà, come tutti gli altri detenuti, c'è un giudice di sorveglianza che valuterà la pericolosità sociale, l'impatto e tutto quello che consegue. Perciò non è vero, come quello che sembrano suggerire i grandi mezzi di informazione, che da domani i mafiosi usciranno come se fossero in libera, appunto, in libera uscita. E allora c'è due pareri, uno favorevole e uno contrario sul Corriere. Uno è Giancarlo Caselli: così c'è l'alto rischio che riprendano le loro attività criminali. Tanto sappiamo che le tengono anche da quando sono in carcere, quindi comandano dal carcere. Ma detto questo, il legale Vittorio Manes è un riconoscimento del diritto alla speranza e valorizza i magistrati. Il ragionamento che cerca di librare il fatto che sono comunque, tocca sempre alla magistratura valutare se uno può andare a casa Natale o non può andare a casa Natale, è questo. Da una parte si dice: la mafia adesso minaccerà i giudici di sorveglianza, che sono quelli che decidono dei permessi o meno. Così la mafia dice, magari minaccia i giudici che condannano o assolvono, cioè non è che sia un gran ragionamento. Poi l'altro, invece, la cronaca di questa scelta, una scelta faticosa e contrastata, passata per un solo voto, su reclusi si valuta caso per caso, effettivamente, come giusto essere, come sempre fatto, come giusto che sia. Tra i giudici 8 favorevoli e 7 contrari, le 3 condizioni stabilite. Riguarda anche chi sta scontando pene non perpetue, come i trafficanti di droga, perché naturalmente sono due argomentazioni che tengono base nella pancia dei lettori: uno, quello dell'orrore dei delitti commessi, e se uno prende l'ergastolo difficilmente ha fatto qualcosa di buono; l'altro è il carcere come buttar via la chiave, cioè come vendetta sociale, meglio se li torturano. Questo è quello che più o meno viene suggerito, senza pur dirlo. Nel frattempo scopriamo che nelle ultime rivelazioni sulla strage di Falcone, tanto citato, ahimè il problema sono le infiltrazioni mafiose nella cosa pubblica, perché il pentito Riggio è uno di quelli che avrà anche i permessi speciali, perché è pentito, c'è anche il testamento cattolico, se ti penti va bene, se non ti penti non va bene. Il pentito Riggio, un ex poliziotto, posizionò l'esplosivo per Falcone. Quindi questo è il vero problema della lotta alla mafia. Allora, per recuperare consenso, allora abbiamo notizie di questa mattina: mafia rifiuti, arrestato boss pentito. Cade come il calcio sui maccheroni questo arresto. Tra i 15 arrestati delle squadre mobili di Ragusa e Catania nell'ambito dell'operazione Plastic Free figura anche il boss pentito Claudio Carbonaro. Quindi era pentito, ma fino a un po' è facile pentirsi per uno sconto di pena, poi dopo continuano a fare i boss mafiosi, esatto. Magari denunciando gli avversari, i concorrenti della cosca altrui. Era proprio col capo del clan Antistiddaro Carbonaro dominante a coordinare, d'intesa con l'imprenditore Giovanni Donzelli, c'è sempre un padrone di mezzo, la raccolta della plastica da parte degli imprenditori padroni, Minardi, anche loro in manette. Gli indagati smaltivano inoltre i fanghi speciali interrandoli e ricoprendoli con cemento e asfalto o sversandoli in terreni vicini alla Sidi SRL dei Donzelli, quello che viene definito una bomba ecologica. Parleremo di ambiente a seguire, ma per adesso rimaniamo sul carcere e l'ergastolo. Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcere Oinè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papà, il bottone mi leggo giornale. Consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevi un po' caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere sanno a fare. Qua ricetta che ci ridendo, compagni di cielo ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Il cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. Quell'uomo certissimo e immenso, io chiedo consenso a Don Raffaele. Galante uomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdona, in 30 rullotti ci alleva i visori. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fa con le tre, pulito e spremuto, pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usando a fare. Qua ricetta cacci cerinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usando a fare. La ricetta di Ciccirini, la compagna dice la precisa mamma. C'è là chi ce l'ha. Io non tengo compendio che chi lo stipendio è un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, vi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe uccelle, gradito campario, volto caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere lo sanno a fare. Qua ricetta che c'è cerinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere lo sanno a fare. La ricetta di cerinella, compagni di cella precisa mamma. Decoro le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista che sa? Chi se son patisciente per chi se per niente se tenga nell'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe inusante. Ma che dite voi state a pagare, e pure che state ci stanno a spazzare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato. Chi l'ha fatta 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, eminenza vi bacio vi imploro. Chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che chi se caffè. Caro Don Raffaele, di lavoro, concorsi, ricorsi, parleremo più avanti. Adesso invece siamo all'ambiente, perché è un governo della green economy fino a un certo punto. Perché leggo, ambientalisti in piazza Montecitorio per protestare su nuove e vecchie trivelle. Qui a differenza delle tasse ci sono quelle vecchie, ma anche quelle nuove, le trivelle. Serena Giannico dal Manifesto. Ambientalisti in piazza Montecitorio contro vecchie e nuove trivelle. Il 26 ottobre, raccontano, andrà a rinnovo il permesso Eni Shell in Val d'Agri, mentre è imminente l'avvio di ulteriori attività estrattive di Total Mutsui Shell con un nuovo centro di Olio Tempa Rossa. Tutto ciò senza che una vera analisi dell'impatto delle attività estrattive sulla Basilicata sia stata ancora nemmeno avviato. Quindi neanche, non in corso, neanche avviato. Domani, lunedì, avvia il processo a Tempa Rossa in quel di Potenza. Questa è una mobilitazione che il Manifesto ci segnala. Poi l'Interno, essendo giovedì, inserisce l'inserto extraterrestre. Oggi si parla di cibo. l'intervista a un po' l'icona del cibo, lo slow food, Carlo Petrini. Il cibo garantisce la vita e le relazioni sociali. Non c'è dubbio che da una parte il cibo è vita, tra più quando non c'è neanche per far pranzo con la cena, d'altra parte si sa che a tavola non si invecchia, c'è anche le relazioni sociali, si consolidano. Ma del cibo c'è l'altro aspetto che viene in primo piano in questo numero di questa settimana, lo sfregio alimentare. Secondo una stima della FAO, che è l'organismo ONU per la fame, più di un terzo degli alimenti prodotti ogni anno nel mondo non arriva negli stomaci degli esseri umani. Quindi lo spreco come icona di questo sistema economico. La filiera dello spreco, della produzione, la raccolta e della distribuzione alla pattumiera. Solo in Italia ogni settimana buttiamo via quasi un chilo di cibo a testa. In molti paesi intanto si sperimentano pratiche virtuose per migliorare il sistema alimentare ed evitare di gettare gli alimenti nella spazzatura. Quindi la follia in un mondo senza sprechi è possibile, racconta Marinella Correggia da questo inserto. La follia è produrre cibo per la spazzatura. Tanto il problema è vendere, non è quello di mangiare. Secondo una stima FAO, almeno un terzo degli alimenti prodotti ogni anno nel mondo, 1,4 miliardi di tonnellate, non arriva negli stomaci degli esseri umani. Questo 200.000, la grande distribuzione in Italia ogni anno butta via nella spazzatura 200.000 tonnellate di cibo, nonostante alcune pratiche virtuose di donatori dell'invenduto, ma sono appunto mosche bianche che in me non fanno né il cibo né primavera. Risveglio della scarola dagli scarti del frigorifero, il metodo spreco zero di Andrea Segre, quindi c'è Andrea Segre di Bologna, che dice non buttiamo via tutto, si può recuperare la roba che senza doverne disfarsi. L'economista e docente in politica agraria in un libro insegna a cucinare ciò che c'è in casa. Sì, ancora La Stampa, che apre con una tragedia, un disastro ecologico in tema ambientale, parte dal Brasile, in Pernambuco, nel Brasile, dove non bastano le foreste dell'Amazzonia, non basta i terreni confiscati di Bolsonaro ai piccoli coltivatori per estendere grandissime coltivazioni di soia da vendere poi ai cinesi, e il petrolio distrugge la costa orientale del Brasile e c'è il presidente Bolsonaro contro i gruppi degli attivisti. Le autorità brasiliane però stanno indagando sulla conseguenza del disastro ambientale che ha colpito il Brasile, e il petrolio si è diffuso in 187 spiagge in 9 stati per 2000 chilometri della costa che compongono la regione nord-orientale. E in tutto ciò il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha ripetutamente criticato il lavoro dei gruppi di attivisti non governativi e ha ridotto il budget delle agenzie ambientali, fra cui l'Istituto Brasileño del Medio Ambiente. E invece, per quello che riguarda l'Italia, abbiamo una notizia che riguarda i 5G e appunto l'internet super veloce. Cresce il fronte degli scettici e vogliamo essere sicuri che non causi danni alla salute dei cittadini. A Roma un'ordinanza che stoppa il territorio del comune il giornalista di Roma Veronica Passeri, che ci parla di un'ordinanza del comune di San Lazzaro di Savena, della sindaca Conti, che stoppa sul territorio del comune di San Lazzaro, appunto nella provincia di Bologna, le nuove antenne 5G, internet super veloce. Il movimento trasversale dal PD e Fratelli d'Italia, i sindaci sono contrari, tra molte perplessità la connessione dati di quinta generazione che rialza la testa. Il comune guidato da Isabella Conti, renziana, appena passata Italia Viva dopo diverse tensioni con esponenti del PD. Lei non ha dubbi, come amministratori non possiamo chiudere gli occhi, spiega, davanti all'assenza di studi scientifici sui possibili effetti della salute su queste radiofrequenze del tutto inesplorate. E c'è da dire che anche nel comune di Bologna qualcosa si sta muovendo, perché all'interno dei consigli di quartiere i presidenti hanno firmato un documento congiunto in cui appunto chiedono al sindaco Virginio Melola di esprimersi in questo senso e nel frattempo stoppare temporaneamente l'installazione e la sperimentazione di questi impianti. Invece su la Repubblica abbiamo preso questa notizia dall'inserto, è presente oggi in edicola Tecnologia e Ambiente, dove ci parla di ghiacci, lo scioglimento dei ghiacci che in Groenlandia ha lasciato i terreni liberi per l'erba e il ghiaccio si è sciolto in modo molto consistente. Ancora un'altra notizia ce la dà Marco Tedesco, sempre dalle stesse pagine, e durante una giornata ci parla appunto dei parchi dentro alle città, e se c'è uno studio eseguito a Londra dove si va a un'analisi che è pubblicata dai ricercatori dell'Imperial College, appunto della Università della capitale inglese, dove dice che i livelli elevati di biossido di azoto sono una vera preoccupazione per le persone che vivono nella capitale, e in particolare per quelle dei bambini, degli anziani e delle persone in cattive condizioni di salute. E questo l'ha affermato appunto questo ricercatore dell'Imperial College. Chiamiamo gli spazi verdi di Londra i polmoni della città, ma come sempre più vediamo che questi polmoni sono avvelenati dall'inquinamento atmosferico, che non si sta facendo abbastanza. Speriamo che questo lavoro contribuisca a ridurre l'inquinamento atmosferico, e sappiamo bene anche su Bologna che cosa sta accadendo. E parliamo del Pluriball, quei tondini di plastica che facciamo scoppiare, che ci portano esattamente a una pagina dell'economia che entra col passaggio forse meno felice. È il Corriere di Bologna che parla della Bion, arrestato il presidente. La Guardia di Finanza negli uffici della società, il sequestro e perquisizione a Storri ai domiciliari. L'accusa, false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato, 9 indagati, il titolo è sospeso in borsa. Già se la passava male prima di questa vicenda, adesso è davvero un tracollo. E tra i dipendenti e adesso 100 lavoratori rischiano il posto, quindi quelli assolutamente innocenti questi. In ansia 100 dipendenti, la parola al tribunale, avviata la procedura per sostituire le cariche societarie, questi sono già ben innocenti. Comunque Marco Astorri, questo boss caduto in disgrazia, il grafico tradito dalle bioplastiche, di sé diceva non sono un chimico né uno scienziato, ma aveva convinto tutti. Anche questa è una storia molto all'italiana, cioè uno che sa fare, perché si presenta bene, frequenta i slot giusti. Quindi poi c'è la storia del travaglio, no, della dirigenza che si vede avvicinare alla Guardia di Finanza, i telefoni roventi dei manager, il presidente ha sparato altro, il GIP, la strategia comunicativa roboante, Astorri, colpa del sistema, ecco. Questo quando non so cosa dire, è colpa sempre del sistema. Vengo invece all'ex Silva, corsa contro il tempo, soluzione entro il 3 di novembre. Quindi da Bologna passiamo al Taranto, via libera del Senato al decreto legge salva imprese. Qui non c'è un decreto legge che non abbia un nome da carosello, no? Uno è Salva Italia, Pulisci Italia, eccetera, eccetera. Questo è salva imprese. Il 31 ottobre, sciopero di 2 ore dei metalmeccanici a Taranto, la situazione è tesa. Questo è mentre il giornale, i giallorossi non cambiano idea sull'Ilva, e ora il futuro dell'azienda è più incerto. Sembrerebbe che o dai all'Ilva l'immunità perenne di fare quello che vuole sull'ambiente, oppure si possa licenziare tutto. Evidentemente, se fosse sul piatto anche la priorità di esproprio dell'Ilva, forse ArcelorMittal sarebbe più prudente. E invece questi giocano con tutti gli assi in mano e nella manica, come se non bastassero quelli in mano, quindi non rischiano nulla. O mangiamo la loro minestra o saltiamo dalla finestra. D'altra parte abbiamo invece l'Alitalia, una notizia che sembra al lupo, al lupo, al lupo. Alitalia, 7ª proroga condizionata. Mi sembra averla già letta questa, una proroga dell'Italia. Patuanelli la concede solo fino al 21 novembre. La cordata del farolero dello Stato Atlantia dovrà subito lavorare con i commissari e aggiornare il MISE, che è il ministero che è preposto all'argomento. E poi veniamo a questa vicenda che davvero fa male, perché in questo mercato senza regole è chiaro che il mondo dei furbi, con un pelo sullo stomaco lungo un chilometro, è il loro habitat preferito, grazie alla liberalizzazione. E quindi, finiti i corsi di formazione per lavorare nella sanità, 47enne truffato si suicida. Suicida a Cosenza. Questi truffatori facevano i loro corsi per anni tranquillamente in ospedale. Nessuno diceva nulla, e non è che non si vedano. Facevano pagare 2.000 euro di iscrizione e garantivano un posto dopo. E mentre tutto falso, e quando un uomo ci arriva dopo tanti corsi, concorsi, diceva di andare andati male, disoccupato, e si vede anche beffato e ingannato così, umiliato, beh, allora a questo punto non ce l'ha fatta. Ma al di là di chi non ce l'ha fatta, il caso più tragico, quanti sono quelli che sono stati truffati da questi delinquenti? Castrovilla di Cosenza si è ucciso impiccandosi alla scala di casa perché è sentito truffato e tradito da un'organizzazione che aveva fatto credere di poter ottenere attraverso dei corsi l'attestato di operatore sociosanitario, un titolo che gli avrebbe permesso di avere un posto di lavoro nella sanità pubblica. Quei corsi però erano fasulli. Francesco Tripaldi, 47 anni, disoccupato, si è suicidato il 20 febbraio 2016 nella sua casa a Trebisacce. Questo è quello che racconta quelli dei corsi sapevano soltanto chiedersi dei soldi. Questo è dal Fatto Quotidiano. Il terribile suicidio del 41enne truffato sulla formazione e la testimonianza di una ragazza incappata negli stessi soggetti. La scuola Sud Europa, perché un po' di Europa non guasta mai in questi casi. Francesco Tripalti, disoccupato, si è ucciso perché ha scoperto che il suo titolo era fasullo. Sì, grazie Alfredo. 10 e 10 minuti primi. E per approfondire il tema locale della Bion, siamo andati a leggere le pagine del Sole 24 Ore, il quale paragona questo crack finanziario al crack della Parmalat, addirittura con accuse di manipolazione del mercato, falso in bilancio e scossone. I vari terremoto giudiziario dopo le accuse estive del fondo Quintessential che si era lanciato per una cordata per comprare il pacchetto azionario, poi è riuscito a sgominare questa truffa il presidente Astorri, e c'è un ritratto di questo personaggio il quale aveva avuto questa idea di inventare la plastica naturale totalmente ecologica e biodegradabile, e però poi non era riuscito a fare niente di definitivo e di concreto nei fatti, e alla fine si è dimostrata tutta fuffa. Sempre sul tema del lavoro, sempre dalle pagine del Sole 24 Ore, c'è un resoconto sul reddito di cittadinanza e apprendiamo che le assunzioni sono al palo. E ci sono ritardi fino a 6 mesi dall'avvio, manca un portale dedicato ad ANPAL per incrociare domande e offerta di lavoro e il modello INPS per gli incentivi. Per quello che riguarda i numeri, su 700.000 percettori del sussidio occupabili presentati 100.186 curriculum, quasi 12 per ognuna delle 8.827 posizioni delle imprese, e questo è il tema preoccupante del lavoro che ci propone appunto il Sole 24 Ore. Anche sul Sole 24 Ore compare un articolo sull'ex Ilva di Taranto, e che denuncia appunto un crollo produttivo a settembre di oltre 4, la società perde 2 milioni al giorno, output fermo a 4,5 milioni di tonnellate di produzione. Il peggioramento dei conti apre le porte a una nuova cassa integrazione. I dipendenti in cassa integrazione in questo momento sono 1.276. Il titolo di Libero questa mattina, di Feltri, insomma, accoglienza uguale delinquenza. Retate di sfruttatori degli immigrati. Cosa succede? 18 arresti in 3 regioni, con i fondi dei rifugiati ristrutturavano ville e organizzavano feste. La Lamorgese non ferma gli sbarchi, ma moltiplica i fondi, i porti, i posti a Lampedusa. L'ospitalità continua. Quindi, secondo Libero, siccome ci sono dei delinquenti che lucravano i soldi dell'accoglienza per farsi gli affari loro, bisogna impedire l'accoglienza. Quindi quando leggeremo che c'è una truffa, ce n'è una al giorno, sugli ospedali, aboliamo la sanità. Una truffa sulla scuola? Aboliamo l'istruzione. Una truffa sull'autostrada? Aboliamo l'autostrada. E questo è il ragionamento di Feltri. Ma vabbè, lo conosciamo e non ci meraviglia. Detto questo, invece, accoglienza uguale delinquenza, vediamo qual è la vera delinquenza. L'altra delinquenza. Solo andata. Prima pagina del manifesto, con titolo e fotonotizia. 39 migranti, di cui un minore, trovati morti nel container di un tir. Questa è la non accoglienza, è il proibizionismo, fa questi morti. La scoperta della polizia britannica nell'Essex, sulla costa sud-orientale dell'Inghilterra, è l'ennesima tragedia della immigrazione di fronte a un'Europa che chiude gli occhi e blinda i confini. Notizie che torna, su cui torna anche il Fatto Quotidiano dal Regno Unito e Michela Rubortone. Migranti, il tir della speranza diventa una bara, 39 le vittime. Il camion era partito dalla Bulgaria, ha arrestato il conducente nordirlandese. Sembra che ci sia proprio un passaggio, una staffetta, c'è una motrice che ha portato questo rimorchio al porto inglese del Regno Unito, e lì l'avrebbe raccolto un'altra motrice guidata dal nordirlandese, una vera e propria organizzazione evidentemente transnazionale. Valdez Sismons di Amnesty International: le politiche in tema di immigrazione del Regno Unito non prevedono percorsi sicuri, chi vuole entrare intraprende viaggi pericolosi, tanto pericolosi che la vignetta di Vauro, tir è un po' morir, c'è una motrice e dietro non c'è un rimorchio ma c'è una bara. Sì, su questo tema anche il Carlino ha un'evidenza, pagina 15, e apre con questo titolo: orrore in Inghilterra, 39 cadaveri nel camion. È arrestato per omicidio colposo l'autista nordirlandese, tra le vittime anche un adolescente. Il tir sarebbe partito dalla Bulgaria e questa è stata una tragedia macabra, con la scoperta di 39 salme di migranti ritrovate all'interno di un rimorchio di un tir fuori Londra ieri mattina, che ha fatto subito scattare l'indagine di Scotland Yard. Ancora in tema di migranti, andiamo a prendere le pagine di Repubblica, perché apprendiamo che un gommone che si scontra con un guardiacosta al largo della Grecia, alla collisione della notte nell'isola di Kos, a bordo 34 migranti e ci sono tanti dispersi. Ancora una tragedia nel mare Egeo, scontro ieri prima dell'alba al largo dell'isola di Kos nel Dodecaneso tra una nave della guardia costiera greca e un barcone con a bordo migranti di nazionalità siriana. Un bambino di 3 anni ha perso la vita e altre persone risultano disperse. 34 migranti erano a bordo delle imbarcazioni e 6 hanno riportato ferite, tra cui una donna incinta. La cronaca italiana ci porta nelle città, cominciando da Genova. Tra l'altro in Genova ancora sinistrata dall'alluvione dell'altro giorno. Però qui parliamo invece di ponti. Genova e i ponti sembra che non leghino tanto. Ispezioni i ponti, ma lì i miei figli non li porterei. Questo è un ispettore. Poi scriverà sicuro. A12, il nuovo malato. Guardie di finanza e tecnici della procura hanno controllato lo stato dei viadotti. E di questo viadotto in particolare. Si chiama Sori, acqua all'interno dei cassoni e nei cassoni cemento che cade a pezzi. Un tecnico della procura dice: non sarei molto tranquillo, i cavi d'acciaio sono pieni di ruggine, non sono elementi decorativi, anche quelli hanno una funzione resistente e portante. Beh, i cavi d'acciaio credo che non siano come le palle dell'albero di Natale, immagino. Guai pure a Napoli, l'altra controllata Benetton, a rischio il viadotto verso Capo di Chino. Acciaio fradicio, mancata manutenzione, città in tilt per il traffico ridotto sulla tangenziale con ricavi stellari. Questo è quello che arriva dalla pagina di Genova. Vengo a Bologna perché non c'è pace sotto gli ulivi. La guerra alla gioventù e al divertimento è a tutto campo. Non risparmia nemmeno Erasmus, perché leggo dal Carlino con Giulio Bergami: notti fracassone, stop alle feste Erasmus. Residenti sul piede di guerra contro l'iniziativa in piazza Scaravilli, dialogo aperto con un'associazione per gli studenti che vengono dall'estero. Siamo soddisfatti dopo l'incontro, gli abbiamo spiegato il problema e ci hanno promesso una mano. Questo, e speriamo che la cosa finisca qua, mentre sembra non risolversi la cosa nuova sede dell'XM24, perché la trattativa per questa nuova sede va a rilento. Attivisti e attiviste del centro sociale lanciano la campagna chiamata Odissea per lo spazio. Sabato prossimo ci sarà una UFO biciclettata. Abbiamo parlato con Andrea di proprio di XM24, sentiamo le sue parole. Sabato prossimo c'è una delle prime iniziative di questa nuova Odissea per lo spazio e cominciamo con una UFO biciclettata, per rimanere in tema. E si tratterà di un giro in bici per la città che partirà alle 15 dal parco vicino XM24 e in cui vorremmo spostarci per parlare sia di ecologia. Ci muoviamo con la bicicletta come spesso facciamo, è uno dei mezzi che preferiamo, insomma, e tramite questo mezzo esplorare la realtà urbana e la Bolognina e Bologna Nord in particolare, ma non solo, per avventurarci e guardarci attorno riguardo agli spazi oggetto della trattativa in corso. La bicicletta come mezzo di esplorazione urbana in cui passeremo per la stazione Avi, che è l'inizio di quella che è stata la riqualificazione della Bolognina. Passeremo per spazi legati a Tiper, che in tema di mobilità c'è stato l'aumento del biglietto dell'autobus, che è chiaro segno di come il comune si muova anche in politiche di mobilità. Passeremo verso i prati di Caprara e appunto poi passeremo tramite gli spazi che stanno segnando questa trattativa con l'amministrazione comunale. Tu prima hai detto che sarà una prima biciclettata, quindi avete in programma di farne anche altre? Abbiamo in programma altri eventi che siano, beh, gli appuntamenti fissi sono gli aggiornamenti il giovedì al mercato e il mercato di Campi Aperti, che continua ad andare avanti nel parco dietro XM. Sarà la prima biciclettata, probabilmente ce ne saranno delle altre. Comunque stiamo costruendo una serie di iniziative nell'ambito di questa campagna dell'Odissea per lo spazio. Esattamente una settimana fa c'è stato questo tavolo di trattative che però non ha portato a una risoluzione. Com'è andato? Ma la situazione va un po' a rilento in questo momento. Di importante da dire cioè che sostanzialmente sono stati tagliati fuori dalla discussione i 3 spazi pubblici proposti, senza avere delle chiare e precise motivazioni, ma solamente delle valutazioni, ecco. Rimarrebbe lo spazio privato di Via Bignardi in discussione, ed è stato proposto un altro spazio sempre privato in Via Zanardi, però molto distante da dove era XM, molto distante, ai limiti della città, ecco. E questo XM24, pagina internazionale, e dunque un bottino di guerra. Mosca minaccia i curdi, la NATO e gli USA festeggiano. Cremlino, sarete asfaltati se non vi ritirate, i curdi. In atto processo di ingegneria demografica, perché importano questi profughi o immigrati sunniti nel territorio curdo, e vista l'ostilità storica delle due comunità possiamo immaginare il proseguo futuro. Attentati islamisti nel Rojava, le milizie filoturchia pubblicano un video su abusi su civili e il GPJ, l'esercito curdo, chiara crociati dal manifesto. Mentre a Roma, Riso puro 4 Java blocca la Florimental Italia SPA. Quei cannoni non devono arrivare ad Erdogan, perché sono commessi militari, stiamo armando la Turchia in questo momento. Trump dice grande vittoria degli USA, è stati via con i pomodori su la verdura, marcia sui blindati, Mosca e padrone del territorio, ma Trump è contento. America Latina, Morales, Bolivia. Vittoria pulita dalle destre, un tentativo di golpe, perché le destre in piazza cercano di contestare il risultato elettorale. In Cile, altro caos totale. Piñera, il presidente, chiede perdono ma non per i 18 morti, resta comunque il coprifuoco, perdono ma rimane il coprifuoco. Mentre Sepúlveda Allende, la vera violenza è l'ingiustizia sociale, perché il Cile è come tutta l'America Latina sotto il livello di sussistenza. Le nuove misure servono solo a guadagnare tempo, urge invece un nuovo modello di paese, parla il nipote di Salvador Allende. E là, questo, i clienti si ribellano al sistema neoliberista ereditato dalla dittatura ed esigono cambiamenti di fondo. La risposta è un terrorismo di Stato analogo a quello degli anni bui di Pinochet, quindi cose davvero terribili. L'Argentina, che quella è in crisi totale. Argentina, sguardi sul disastro tossico, lo prendiamo dall'inserto extraterrestre del manifesto. I pesticidi sono i protagonisti del festival della fotografia che si tiene a Lugano fino al 27 ottobre, l'orrore delle immagini di Pablo Ernesto Piovano, quindi le campagne distrutte, quindi anche le uniche grandi fonti di sostentamento dell'agroalimentare. Mentre su Contropiano, giornale online comunista, in America Latina è in corso una storica lotta di classe tra capitale e lavoro. Questo è l'intervista al professor Vasapollo. Io sto con i popoli che lottano contro il capitale transnazionale ovunque nel mondo, e quindi sono col governo di Venezuela, della Bolivia, con i popoli di Ecuador e Cile che manifestano contro i rappresentanti del Fondo Monetario Internazionale. Sì, a proposito dell'America Latina, anche la Colombia non se la passa bene, perché il presidente in carica, ormai eletto da più di 11 anni, ha cercato di invalidare le elezioni e adesso stanno lottando per vedere se entro dicembre ci sarà la seconda tornata di elezioni, che si terranno solo se non c'è uno scarto notevole fra i due vincitori. Anche per quello che riguarda il Cile, Santiago in rivolta, palazzi occupati, gli studenti non cedono alle promesse. C'è un inviato di Repubblica, Marco Mensurati, che fa un articolo appunto e parla del bilancio delle vittime. C'è anche un bambino di 4 anni, e sempre Repubblica ha intervistato Isabella Allende. E dice che il governo è in una bolla e solo il dialogo può salvare il Cile. Il paese è molto ricco, perché è pieno di risorse e di materie prime, ma il tesoro è in mano a poche persone, e tutte le rivoluzioni sono nate per le disuguaglianze più che per la povertà. Ancora dei curdi che accusano Erdogan per aver creato un corridoio in Siria dove avrà confinato i 3.600 migranti che erano arrivati nel corso degli ultimi anni. Chiudiamo col prendere gli alloggi, compare in chiave di cronaca locale. Dal Carlino con Simona Sale. Affitti misti a studenti in settimana e nel weekend la casa va ai turisti. La CNA e Local Pal propongono un nuovo tipo di contratto, del tutto nuovo nel nostro paese, ma al nodo gli appartamenti per università di competenza del comune, non dei privati. Oddio, io mi ricordo quando ero studente io, i privati tenevano stretto il fruttamento degli studenti nelle loro case. E non dicevano che era patrimonio del comune. Adesso invece sbollano la patata perché è più conveniente Airbnb. Comunque, leggiamo dal Carlino ancora, chiediamo all'amministrazione di venirsi incontro per promuovere insieme la nostra città. E chiudiamo anche allora col raddoppio del numero di studenti che avrebbe diritto a un posto in studentato ma non ne può beneficiare per assenza di posto. Lei lo denuncia al Link, che ha inviato una lettera aperta all'università e all'amministrazione comunale per chiedere di risolvere questo problema cronico aggravato negli ultimi anni dall'aumento degli affitti turistici, proprio come si leggeva. Allora la nostra Sara Spimpola ha intervistato Lorenzo Baldino proprio del Link. Sentiamo le sue parole, con questo vi salutiamo, alla prossima, ciao. Alla prossima. I sentiti dei non beneficiari sono quegli studenti che hanno fatto richiesta per accedere ad un posto alloggio tramite bando ergo e che, pur risultando idonei secondo i criteri del bando, per cui rientrando tanto nelle categorie ISE quanto diciamo negli altri criteri richiesti per accedere al posto studentato, non possono accedervi perché mancano posti o comunque rimangono esclusi dalle graduatorie. Voi avete scritto una lettera aperta ieri destinata a vari volti delle istituzioni comunali e regionali per porre l'attenzione proprio su questo tema degli studenti idonei non beneficiari. Nella lettera dite che quest'anno raddoppieranno rispetto all'anno scorso. Di che numeri parliamo, per avere un'idea? Allora, adesso i dati ufficiali non sono ancora usciti. Saranno probabilmente più di 500 quest'anno idonei non beneficiari, anche se ancora appunto dobbiamo aspettare per dirlo, perché attualmente sono uscite soltanto le graduatorie e probabilmente ci saranno anche molte rinunce, dato che comunque diciamo anche l'aumento delle rinunce è preoccupante. Noi ci aspettiamo almeno un 500 idonei non beneficiari, il numero che appunto è più del doppio dell'anno scorso e tra l'altro conferma un trend di crescita rispetto a diciamo questo fenomeno, questa problematica. Questa situazione va ovviamente inquadrata anche nel contesto più ampio di un'emergenza abitativa a Bologna in generale. Allora, il problema dei donne non beneficiari, anche diciamo dell'esplosione del fenomeno, è dovuto soprattutto al fatto che il mercato abitativo a Bologna è sempre più problematico, come diciamo i dati che quest'anno sono arrivati anche per esempio da Solaffitti, da Stessa Housing Box, ci dicono che a Bologna oggi il costo medio di una singola è di 410 euro al mese, con un rincaro del 12% medio rispetto all'anno scorso, perché chiaramente la situazione di grave emergenza abitativa che vive tutta la città ha spinto probabilmente molti più studenti che negli scorsi anni non facevano richiesta a richiedere un posto in studentato pubblico per vivere a Bologna. Questo però chiaramente ha fatto semplicemente emergere, anche in maniera se vogliamo più evidente, un problema che in realtà è strutturale della città di Bologna, che è sostanzialmente quello del totale disinvestimento in edilizia pubblica e in studentati pubblici, perché evidentemente la crisi abitativa, se non si fosse accompagnata da adeguati investimenti in residenzialità pubblica, non verrebbe sicuramente risolta, ma sicuramente si potrebbe andare incontro più facilmente agli studenti in maggiori difficoltà economiche. Chiaro, e quindi voi che cosa chiedete alle istituzioni comunali, anche dell'università? Quello che stiamo chiedendo è fondamentalmente che si apra un tavolo di discussione rispetto alla tematica, con particolare riferimento chiaramente al provare a dare risposte immediate agli studenti che vivono oggi questo problema, ma anche con una, diciamo, una prospettiva di lungo periodo di generale reinvestimento in residenzialità pubblica. Oggi purtroppo è sempre più marcato il trend, l'intenzione tanto dell'Università di Bologna quanto di Ergo di esternalizzare sempre di più il servizio di residenza pubblica, andando a investire sul privato, smettere di investire in studentati privati di lusso come student hotel e investire in residenze pubbliche e soprattutto appunto trovare soluzioni per chi oggi vive questo problema con soluzioni come vengono attuate in Toscana, come il contributo affitti, lo studentato diffuso. Però questi studenti oggi stanno venendo compromesso seriamente il loro diritto a studiare e quindi oggi hanno bisogno di delle risposte. Voi avete lanciato anche una petizione, giusto? Sì, abbiamo lanciato una lettera aperta con cui stiamo cercando di raccogliere sottoscrizioni, perché il problema è che molto spesso il fenomeno proprio non emerge, perché molti studenti rimangono esclusi o magari in fondo alle graduatorie spesso preferiscono cercare direttamente una soluzione privata o trasferirsi addirittura in un'altra città, cioè rinunciare a studiare a Bologna. E quindi quello, diciamo, il primo passo che abbiamo cercato di mettere in campo è proprio il fare emergere la tematica, anche dare voce a quegli studenti che oggi non vengono per nulla rappresentati. Certo, e dove si può firmare questa petizione? La petizione, diciamo, l'abbiamo diffusa però tramite i nostri canali social network, dalla pagina di Link Bologna Studenti Indipendenti, Instagram. Stiamo provando a farle girare anche, diciamo, nei gruppi di facoltà. È una petizione che abbiamo costruito con change.org, per cui anche semplicemente dal sito è possibile trovarla e sottoscriverla. Quello che dovremmo provare a fare, perché noi appunto abbiamo indirizzata a diversi esponenti anche delle amministrazioni pubbliche, quello che vorremmo fare è proprio dare voce nel modo più evidente possibile a questa problematica, cioè il fatto che soprattutto è una problematica che riguarda tutti quanti, non soltanto gli studenti esclusi dal bando, ma è proprio un problema sistemico che deve riguardare tutta la città di Bologna e deve coinvolgere tutti i cittadini bolognesi.